rojaco. Magoras arzakito jahoronga. Nangyoania say dilabu. Dahasia Horohasia Nasai buri di bagas rohako di ate ateko. Oh oh oh Horohasia Naboy pamanu arsak. Yeah.